Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. Il terzo orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista, presenta Rosy Braidotti a Roma. Il postumano, la vita oltre il sé, oltre la specie, oltre la morte. Care nostre radioascoltatrici, eccoci qui per un'altra puntata del terzo orgasmo. Come state? Come stiamo? Siete morte? Risorte? Metà e metà? E quale metà è risorta? O morta? Bene, mettiamoci una bella sopra, una bella lastra di marmo, una bella croce, belle vigata e genzini mia che non ci si pensi più. Questo l'ho già sentito. E il mio cuoricino straziato è pieno di croci. E tutte con lo stesso nome, originale. Nessuna mi capisce. Cercasi vera amichetta del cuore. Anyway, per questa puntata abbiamo deciso di riposare le corde vocali e di dare tregua ai vostri padiglioni auditivi condividendo la registrazione di un evento, ossia la presentazione dell'ultimo libro di Rosy Braidotti. Il postumano, la vita oltre il sé, oltre la specie, oltre la morte, presentato per l'appunto l'8 aprile scorso presso lo spazio ESC Atelier autogestito. La domanda sorge spontanea: quene Rosy Braidotti? Tutto saccio stavolta. Dunque, Rosy Braidotti nasce nel 1954 nella Bassa Friuliana. Si laurea all'Università di Canberra nel 1977, conseguendo immediatamente due importanti riconoscimenti, la University Medal in Philosophy e l'University Tillyard Prize. Con una borsa di studio che ottiene nel 1981, si trasferisce a Parigi per il dottorato in filosofia alla Sorbona. A Parigi conosce Foucault, Barthes, Simone de Beauvoir e Lucy Rigaray, ma soprattutto Gilles Deleuze, ispiratore del nomadismo. A Parigi incontra anche il femminismo e la psicanalisi, che imprimeranno un'ulteriore svolta al suo pensiero. Nel 1988, a soli 34 anni, ottiene la prestigiosa cattedra, la prima in Europa, di Women's Studies nell'antica Università di Utrecht, in Olanda, mentre nel 1955 fonda e dirige la Netherlands Research School of Women's Studies, incarico che manterrà fino al 2005. E infine, en passant, è pure lesbica ed è sposata con una bella guaglione. Record of the time. saw before. Why? Because I'm a caveman. Why? Because I've got eyes in the back of my head. Why? Eccoci di nuovo in diretta. Io mi scuso enormemente per il mio pessimo inglese, che quando lo faccio in classe mi si rivoluziona tutto l'inglese, quindi women studies, scusatemi, chiedo scusa, ecco, a tutte quelle che hanno un inglese perfetto, non è il mio. Dunque, ben trovate nuovamente, ricordo chi si fosse messa orora in contatto con noi, che stiamo mandando in onda la presentazione de Il posto umano di Rosy Braidotti, l'ultimo libro di Rosy Braidotti, un evento appunto che si è svolto lo scorso 8 aprile presso lo spazio autogestito Escatelier. Dunque, per comodità di ascolto, abbiamo distinto la presentazione di Rosy Braidotti in 5 capitoletti, di cui vi anticiperemo di volta in volta l'argomento, e adesso andiamo ad iniziare. Cosa ascolteremo nella prima parte? Che cos'è il postumanesimo e che cos'è il postantropocentrismo? Postumanesimo e postantropocentrismo sono due cose diverse. Analisi rapida da parte dell'autrice dei diversi capitoli del libro. Il postumano non è un concetto, ma una strategia, uno strumento. Libro che ha il titolo sbagliato, il postumano non insegna molto nulla, non è un concetto, è uno strumento di navigazione che ci dovrebbe permetterci di capire qualcosa a ciò che sta accadendo alla frontiera fra corpi, nuove tecnologie e capitalismo avanzato, che non è una frontiera ma una galassia in movimento perenne che ci obbliga a fare delle acrobazie mentali per cercare di capirla. Io sono italiana d'origine, come sapete, ma mi sono formata alla scuola francese, sono stata allieva di Foucault, di Deleuze, di Rigarai, quindi per me l'antiumanesimo è un dato di fatto, e ogni volta che dialogo con le mie amatissime amiche italiane della mia generazione, saluto Serena Sapegno, che si nasconde nella folla, o la nuova generazione di Caterina Botti, mi rendo conto che l'umanesimo in Italia ha un'altra presenza, un'altra storia, un'altra consistenza. Allieva di Foucault, praticamente la morte dell'uomo per me è l'inizio, la vita comincia con l'interpretazione dei sogni di Freud, Das Kapital e Les Mots et les Choses, prima non c'è nulla. Quindi praticamente io uomo non lo sono mai stata, non ho mai voluto esserlo, e la mia appartenenza all'umanesimo è non da prendere per scontata, ma da negoziare. E qui già possiamo smettere e cominciare il dibattito, perché di umanesimi ce n'è tantissimi, c'è una solida tradizione di umanesimo di sinistra, umanesimo socialista, umanesimo leninista, proletario, che ha avuto un'importanza fondamentale per questo paese come per molti altri. C'è l'umanesimo non occidentale, l'umanesimo degli anticolonialisti di Fanon, quando Sartre scrive la prefazione alle Damnée de la Terre di Fanon nel 58, dice che l'umanesimo ha un grandissimo avvenire fuori dall'Occidente, da noi è morto Auschwitz, nel resto del mondo ha un avvenire assicurato a tantissimi orizzonti possibili. Quindi abbiamo l'umanesimo Ubuntu di Nelson Mandela, abbiamo Césaire Fanon, Toussaint Louverture, Paul Gilroy, abbiamo l'umanesimo di Vandana Shiva, ma non solo la mia storia, non solo la mia cartografia, non è il mio posizionamento. E per quanto mi riguarda, l'umanesimo in Occidente ha fallito, ha mentito, non ce l'ha fatta. Nel colonialismo, nel fascismo, è morto. Quindi per me questo l'inizio è da questo, quindi staccarmi dall'umanesimo, visto che sono di formazione antiumanista, non è una grande crisi, anzi ho dei momenti di grande gioia, più liberi finalmente. Ma ovviamente non è mai così semplice, essere coerentemente antiumanista è impossibile, e questo già lo sapevo anche da piccola, perché è chiaro che se è morto l'uomo non è che il secondo sesso di quell'uomo, stesso uomo, stia tanto bene. Mi ricordo i graffiti sui muri di Parigi quando eravamo studentesse: Dio è morto, ma se è morto e non mi sento tanto bene neanch'io. Che insomma era un modo come dato dire che l'antiumanesimo è virale, stiamo attenti, non è che muore l'uomo e stiamo tutti in perfetta salute. La crisi del secondo sesso, la decostruzione del significante donna, è al cuore del femminismo della differenza, che è fondamentale per me e per tutta la mia generazione. Quindi se muore l'uomo la donna sta bene? Non credo. Difatti dagli anni 70 in poi abbiamo diversificato, decostruito, distrutto in un certo senso l'unità del soggetto donna, mettendolo in divenire nomadico verso un divenire femminista, che è la transizione verso altri modi possibili di essere femmina, sessuata femminile, in un mondo non fatto a nostra misura. Quindi antiumanesimo pieno di contraddizioni. Derrida diceva giustamente che è impossibile essere antiumanisti davvero, che le contraddizioni sono enormi, e nell'ultimo capitolo del libro, quando faccio così una specie di visione delle scienze postumane a venire, ovviamente sogno avvenire possibili, progressi possibili, scenari possibili, posizione puramente illuministica, puramente umanistica, chiaramente contraddittoria. Quindi assumo queste contraddizioni che sono storiche, non solo personali, però tengo questa linea di una certa euforia della fine dell'umanesimo, che probabilmente irriterà un sacco di gente, ma insomma fa parte della mia storia. Il secondo piano del postumano, che è il post-antropocentrismo, è un'altra storia, perché possiamo separarci dalle le classiche definizioni della differenza all'interno della nostra specie: sessualizzazione, razzializzazione, vabbè, insomma, sono le variabili classiche della differenza. Donna, nero, postcoloniale, vabbè, possiamo fare la critica di tutte queste differenze, ma accettare che la centralità di antropos non fa più parte del nostro orizzonte è un altro discorso. Accettare che andare in rete, essere in rete, vivere in una cultura mediata tecnologicamente a un livello tale che la presenza, l'intervento della decisione umana non è necessaria costantemente, questo è un altro tipo di spiazzamento. E quindi nel libro è proprio il capitolo secondo sul post-antropocentrismo, sul divenire animale dell'uomo, sul divenire macchina, sulle nuove maniere di morire, le forme di inumanità che emergono da questo spiazzamento dalla centralità della nostra specie. Penso che sia la parte forse più divertente, ma anche più dolorosa, perché va bene, anche i più radicali antiumanisti in realtà sulla supremazia della nostra specie non mollano, sui diritti degli animali, sull'animalizzazione del pianeta, insomma. Foucault diceva, cita Borges, lo dico, ve l'ho appena detto alla radio, che ci sono tre tipi di animali: quelli con cui guardiamo la televisione, quelli che mangiamo e quelli di cui abbiamo paura. Tre forme di animalizzazione, ma anche di umanizzazione dell'altro animale, che comunque parlano di una grande intimità e esprimono una grande complicità fra l'umano e non l'umano. Quindi spiazzare la centralità dell'umano, pensare a un divenire animale planetario, pensare che gli effetti di questa grande nel senso è lo stesso livello elevatissimo di conoscenze bioscientifiche, il genoma umano, le nuove forme di nanotecnologie, le cellule staminali, che ci hanno permesso di capire che l'umano ha tantissimo in comune con le altre specie e non è assolutamente il centro dell'universo. La presenza della mediazione tecnologica nel nostro sistema finanziario, che è al centro di così tanti problemi e tante discussioni, dei nostri sistemi di difesa, i droni e le macchine telecomandate che fanno la guerra al terrorismo e che ci permettono di non avere così tanti cadaveri occidentali quanto dall'altra parte, tutti questi meccanismi di mediazione non assumono la centralità dell'umano. Quindi una parte dell'argomento è una critica del capitalismo avanzato, che ha spiazzato l'umano rimpiazzandolo con sistemi tecnologici a scopi puramente commerciali, strategici, opportunisti. Quindi c'è un versante opportunista di un post antropocentrismo che è finalizzato allo scopo del profitto e del lucro, ma c'è anche un post-antropocentrismo che apre nuovi orizzonti, e quella parte più affermativa, positiva, io me la gioco con Deleuze e Guattari, che sono gli Spinoza del terzo millennio, con il loro monismo, con il loro materialismo vitale, con un accento messo sulle molteplici appartenenze di quello che era il re della creazione a un regno animale che è diventato molto più più diversificato e che ci apre grandi prospettive, compreso interventi, miglioramenti della nostra corporalità. Quindi tutto il passaggio più concettuale, un po' pesante, ma possiamo riparlarne. Fondamentale in questa cartografia dello spiazzamento di Anthropos, l'inumanità. Il capitolo terzo del libro, non so se è il mio capitolo preferito, anche se il più bello mi dicono il quarto, non so perché, vabbè. Ma il terzo sull'inumano penso sia molto importante, l'estrema cruenta violenza di quest'epoca che ha queste incredibili tecnologie che potrebbero davvero darci i mezzi per fare, per esprimere capacità nuove, quasi infinite, della nostra corporalità, della materia vivente, intelligente che non siamo, e che invece trattano una grande fetta dell'umanità come carne da macello, come corpi disponibili, come cadaveri in divenire, la cui temporalità, l'aspettativa di vita è molto limitata. Quindi nuove gradazioni di razzismo, come già aveva indicato Foucault nel suo piccolo lavoro, che non ha fatto granché sulla biopolitica, che la biopolitica è anche necropolitica, si controlla la vita, ma anche permette una nuova regolazione della morte, dello sterminio, dell'estinzione. E penso che questa presenza costante del cadavere nella nostra vita sociale, e per una cultura che ormai è in guerra contro l'Islam, contro i poveri, contro se stessa, sia uno degli aspetti più contraddittori, più dolorosi e politicamente più complessi dell'epoca in cui viviamo. Quindi è un momento di pietas, ma anche di rabbia verso le forme di crudeltà e di inumanità che appartengono all'epoca del post-umano. E poi concludo, perché è un po' il mio posizionamento istituzionale, chiedendomi qual è l'umano delle scienze dette umane, perché mi preoccupa molto un po' questa campagna contro le scienze umane all'università in questo momento preciso della nostra storia, della nostra cultura, in cui so, con il pretesto che le bioscienze, che le nuove scienze neuronali, che la robotica hanno capito tutto sulla struttura dell'umano, stiamo eliminando, stiamo veramente sopprimendo, sicuramente stiamo togliendo finanziamenti vitali a tutto il campo di studi che aveva sia Anthropos che l'uomo al suo centro, e quindi le scienze umane sono in una situazione assolutamente disastrosa e non vedo avvenire radiosi. Quindi c'è tutto un discorso interno, ma siccome in realtà tutti i movimenti di liberazione, grande parola, negli anni 70, femminismo, antirazzismo, movimenti per la pace, movimenti alternativi, ambientalismo, sono nati, sono stati nutriti dalle scienze umane, le scienze sociali, non so quali saranno le conseguenze della chiusura ormai sistematica di facoltà di scienze umane e scienze sociali per questi campi del sapere. Quindi mi interrogo e offro scenari su quello che chiamo le scienze post-umane, che non partirebbero dal presupposto che l'uomo è la misura di tutte le cose, né dal presupposto che l'oggetto necessario di studio per le scienze umane sia l'umano. Le scienze post-umane possono tranquillamente studiare la terra, la guerra, oltre che il capitale di sapere classico dell'umanesimo che ci portiamo addosso da secoli. Quindi c'è crisi delle scienze umane, quindi crisi dell'università contemporanea. Avremo ancora un'università, o è possibile avere una multiversità di saperi molteplici che permettono a soggetti nomini di esprimere le forme di produzione della conoscenza che ormai fanno parte del nostro repertorio, oppure andiamo verso semplicemente istituti di tecnologia che si chiameranno università ma non lo saranno? E questo può magari irritarmi un po', ma è una parte molto importante della mia pratica politica, anche da professore, la pratica istituzionale, quindi offro dei scenari alternativi per le scienze post-umane, sia post-umanistiche che post-antropocentriche. La speranza del libro è di tracciare, come sempre, alleanze intergenerazionali. Rendo conto delle mie contraddizioni, racconto anche in voce abbastanza autobiografica, essere allievo di Foucault, crescere come antiumanesimo, il femminismo come comunque un movimento di non appartenenza all'uomo. Ripeto, uomo non lo sono mai stata, non mi è mai interessato essere. Quindi questa differenza di posizionamento giocata con il femminismo, una differenza con il femminismo nomine di Deleuze, con mille altre varianti, è anche una grandissima risorsa che offro alle generazioni con contemporanee come strumento di dialogo. Le cartografie, come dice giustamente Angia, sono fatte per essere scambiate. Quindi il libro finisce con una nota positiva, quasi patologicamente ottimista, sull'avvenire del postumano, con questa frase che è stata criticata anche da molti che hanno scritto le recensioni, dicendo che questo è il migliore dei mondi postumani possibili, è il migliore dei mondi postumani, che è una citazione ovviamente di Leibniz, ripreso con Deleuze, anche un po' un riferimento al Candide di Voltaire, il migliore dei mondi possibili. Ma lo dico che è il migliore non nel senso normativo, ma nel senso quasi energetico, materialista, vitalista del termine. Questo è il solo mondo che abbiamo, c'è solo questo, è il meglio che siamo riusciti a fare. Quindi vabbè, non sarà tanto, ma giochiamocelo, cioè, prendiamocelo assicuro, abbiamo cura di questo, perché tutto ciò che abbiamo, quindi è migliore nel senso che è il risultato del meglio che abbiamo saputo dare. Sarà patetico, ma partiamo da qui. Quindi c'è questo ottimismo radicato, situato, che può far ridere, ma fa parte della mia politica affermativa. Per pensare anche gli orrori dobbiamo poter credere che il pensarli in qualche modo ci porterà avanti, ci permetterà di andare oltre e di cercare di migliorare ciò che siamo riusciti a fare. Quindi non è un ottimismo così leggero. Sono grata anche per parlare dell'ottimismo, della passione, e la passione è quella del divenire ciò che non siamo stati programmati ad essere. Questo in sostanza la cosa. Quello che ascolteremo nella seconda parte, il superamento del negativo a partire dalla soggettività spinoziana, politica dell'affettività, importanza della soggettività come alleanza trasversale. Quindi qui c'è una discussione molto profonda da fare e delle cartografie diverse da fare. Quando vi ho detto io sono di stampo francese, è perché tutto questo l'ho vissuto in Francia. Francia, non in Italia. Francia, dove però c'erano tutti i fuoriusciti degli anni di piombo, quindi ho anche visto i risultati di una certa appropriazione operaistica disastrosa di un certo discorso sulla necessità della violenza, secondo la quale io praticamente sono assolutamente immunizzata. Vi segnalo che Foucault e Deleuze hanno fatto baruffa sulla questione di negri, si sono separati. Quando Deleuze ha scritto la prefazione all'Anomalia selvaggia, Foucault ha detto: ma insomma, quest'uomo è un proponente della violenza armata, ma cosa stiamo facendo? Stiamo scherzando. Quindi è una qualcosa molto dolorosa, e secondo me il pensiero di Deleuze non è entrato in Italia. Ci sono un paio di traduzioni fatte su Out-Out all'inizio degli anni Ottanta, significativamente fatte da Luisa Muraro, che però ha tradotto un paio delle cose di Deleuze, poi si è buttata sui Rigarai, mentre in Italia entravano in vigenza le leggi speciali e l'emergenza. Quindi qui c'è una storia, una spaccatura storica che va rivista per cercare di capire le nostre differenze, lo dico semplicemente per immanenza e per chiarezza. Le nostre cartografie su questo sono diverse, ma restiamo su questo ritorno di Spinoza e su cosa succede e sulle varie ramificazioni di questo ritorno a Spinoza, perché è un cambiamento di paradigma che si stacca dalla filosofia hegeliana della storia, non è niente, è una botta sonora, è un grosso cambiamento, uno slittamento di terreno. Nel femminismo questa svolta Spinoza non è avvenuta essenzialmente perché una visione hegeliana della storia fa anche parte della fabbrica, io la chiamo lacaniana. La psicoanalisi lacaniana ha ripreso l'importanza del negativo non solo come strumento di lavoro, cosa che il negativo sarà per Deleuze. Deleuze ha una visione, Deleuze ha una visione analitica, ha una funzione analitica del negativo, non normativa. Ma nella psicoanalisi di stampo hegeliano il negativo è assolutamente fondamentale, ci vuole il famoso taglio della libreria di Milano, ci vuole la spaccatura, perché altrimenti non c'è soggettività, non c'è politica, non c'è rivoluzione. Quindi c'è dentro questa cosa del taglio della spaccatura una violenza epistemica necessaria. A me sembra che la grandezza di Deleuze e Guattari sia chiaramente di porsi contro questa violenza epistemica. Io ho spesso descritto sia Zoé che il monismo vitalistico come una specie di pacifismo ontologico che irrita i guru del neonegativo di oggi, Gige, Badiou e compagnia bella, perché loro sono rimasti all'idea che senza negativo non c'è politica, e di questo noi dobbiamo veramente parlare. La mia cultura politica, il femminismo, è riuscito a fare dell'affermazione della vita una linea politica netta, precisa, pragmatica, concreta e molto efficace. Noi abbiamo cambiato la vita nella relazionalità più intima, facendo grandi disastri, provocando grandi cose e cambiando semplicemente il modo di relazionarsi. La domanda che io suppongo che sia generazionale che cartograficamente posizionata altrove, di che cosa avete bisogno per far politica? Ma vi serve proprio un metadiscorso rivoluzionario per poter agire? Dobbiamo davvero avere un quadro di riferimento che è il superamento assoluto del capitalismo prima di poter mettersi d'accordo su fare qualcosa, una piccola cosa? Io ho passato molto della mia giovinezza a sognare di oltrepassare il patriarcato, insomma, contro, essere contro, ma come ci si sente bene quando sei contro? Come se bastasse quello? Passare da una funzione del negativo, che è certo che siamo contro, ma questo è l'inizio. A partire da lì ci vuole una progettualità che trasforma il negativo in strumento di lavoro. Questo Spinoza lo fa, questo Deleuze lo fa, ponendo una visione della soggettività come alleanze trasversali. È una pratica, è un modo di essere al mondo, di posizionarsi, di cercare alleanze che ci permettono di intenderci su uno strumento di navigazione, diciamo, postumano. Parliamone, vediamo, siamo qui, possiamo ragionarci, possono uscire pratiche concrete da questo o stiamo sognando? È in questo dialogo che è una relazionalità nella quale non ci posizioniamo con Schmitt e gli altri maestri del negativo nazista, oltretutto Schmitt, perché la sinistra legge un nazista e vorrei sapere, ha più scorso, ma che non posiziona il negativo come strumento necessario, ma come arma analitica per passare a una produzione collettiva del positivo, dell'affermazione, del fare nel mondo in quello che abbiamo qui. Io ho scritto molte cose sul superamento della negatività, lavoro molto sull'affettività spinoziana, nel senso che mi preoccupa molto il culto della negatività come premessa necessaria a ciò che Žižek chiama la politica, che non è altro che violenza verbale, epistemologica e di genere, perché questi grandi maestri del negativo si sono permessi di cancellare 30 anni di pensiero e di pratica femminista. È come se noi non avessimo scritto niente, fatto niente, è come se non ci fossimo alla faccia della negatività. E siccome non ci siamo, è un grosso lavoro l'abbiamo fatto, io rivendico questa forma di politica come un grosso capitale che va ripreso, ed è una posizione assolutamente distruttiva di negare l'esistenza del femminismo e poi lamentarci che non abbiamo altri modelli politici. Qui è una doppia cancellazione. Quindi no, importanza non di una visione marziana del negativo come la precondizione del politico, un utilizzo analitico del movimento negativo per creare condizioni pratiche che possono sembrare umili, ma allora se questo non mi basta, voglio sapere se qui c'è un ritorno delle mega narrative, che è il titolo di un grande libro di Bagius, di sta ritornando in campo una visione hegeliana della storia, e qui c'è un grosso dibattito da fare e delle cose da precisare. Un inizio di discussione su questo. We'll be right back. Terzo capitoletto, attraverso Deleuze, una lettura dell'alcolismo come filtro all'intensità della vita e relativa potenzialità del divenire. Qui si fa notte, andiamo anche sul seminario di sera. Fondamentale, ovviamente non si può parlare di affettività, un soggetto affettuoso che motivato, che motivato dal desiderio come positività e produttività, e non parlare di passioni negative, è impossibile, chiaramente. Però precisiamo di cosa stiamo parlando. Nell'etica di Spinoza, positivo e negativo, tristezza e gioia, amore e odio, non sono stati psicologici. Quindi chiariamo questo fin dall'inizio. Qui si parla di geometrie di passioni, non di stati psicologici. Bisogna depsicologizzare questa discussione, che per noi soggetti del capitalismo avanzato è molto difficile, perché siamo intrisi, saturati da iperindividualismo, in positivo come in negativo. Quindi riuscire a pensare uno stato di positività e di negatività che non sia mi sento positivo, mi sento negativo, è un grosso sbalzo. Quindi bisogna cominciare da questo, dalla costruzione di una posizione di soggetto nomade nei confronti di passioni positive e passioni negative, che implicano un superamento dell'io, implicano un soggetto non unitario, trasversale, negoziabile in assemblage o in costituzioni collettive. Quindi questo è già una prassi, è già un lavoro, è già una pratica, non è dato. L'importanza di Spinoza è che questo superamento di una visione puramente, parlo come con Deleuze, molecolare, individualizzata del sé, ha una dimensione, ovviamente è un progetto etico, ma ha una dimensione politica immediata, perché se uno definisce le condizioni del proprio intristimento o della propria gioiosità in una relazione fra il dentro e il fuori, cioè se diciamo, come dice Deleuze, il fascismo è la tristezza dell'anima, il capitalismo avanzato è la depressione concertata e organizzata con prosa che rita lì pronti ad andare dentro per i più giovani, in modo che vi teniamo sedati, noi posizioniamo il punto di emergenza del soggetto non nell'io interno e profondo, ma in un rapporto fra sé e fuori da sé che sì, è etico ma profondamente politico. La differenza tra Hegel e Spinoza è che Deleuze dice che è l'etica a dettare il politico, è l'etica, è proprio il superamento, l'intristimento del sé, che è sempre l'operazione di uno stato repressivo, di un sistema di mercato repressivo che fa di noi dei depressi a vita, dei cadaveri ambulanti. Quindi è fondamentale, stiamo parlando di una geometria delle passioni, non di stati psicologici. E su questo Deleuze scrive delle cose bellissime quando parla, per esempio, del suo alcolismo, cosa che fa nella Logique du Sens, in molte pagine molto belle di Bill Plateau. E questa è una cosa molto bella, perché secondo me risponde a molte delle cose che state dicendo su sulla progettualità di questo tipo di soggettività, già tenendo conto del fatto che uno, nel punto di riferimento, ripeto, non è l'individuo, ma un superamento del sé, per mettere a fuoco le condizioni che producono questa massa di tristezza, le che creano in noi le passioni negative. Quando parla del suo alcolismo, Deleuze ne parla come un rapporto all'intensità della vita, un rapporto all'intensità. E più tardi, nel Mille Piani, parlano della droga e di altre forme di tossicodipendenza come una maniera di filtrare l'intensità che ci abita e che dobbiamo cercare di contenere, di formattare, parlo in italiano tremendo, e di mettere in opera, di attivare in modo che ci serva qualcosa di affermativo. E l'intensità altro non è che la potenzialità del divenire. Io apro il libro parlando di una scrittrice, uno scrittore e scrittrice che forse conoscete, che si chiama George Eliot, che ha scritto delle cose bellissime su questa intensità nell'Ottocento, in romanzi che sicuramente conoscete, Mill on the Floss, Il mulino sulla Floss, Middlemarch, in cui c'è questa visione perfettamente spinoziana della correlazione fra i nostri stati interni, per così dire, e il cosmo nel suo insieme. Perché cito George Eliot? È perché è la traduttrice inglese di Spinoza. Quindi se cercate una maniera rapida di entrare in questo tipo, rileggete la sua opera, una persona straordinaria, in cui si vede questo parallelismo, è il termine di Spinoza, questa risonanza fra le condizioni esterne e il proprio divenire, che implica ovviamente dei passaggi molto difficili. L'alcol, il caffè, la droga, le sigarette sono maniere per sostenere l'intensità. Allora ovviamente qui si entra in un territorio molto difficile. E dice delle, se io sono un vero alcolizzato, una persona che ha bisogno di bere per vivere. Uno che vuole morire suicida è un altro discorso, vi segnalo che lui morirà suicida, ma questo è un altro discorso. Il vero alcolizzato beve per poter vivere, quindi un vero alcolizzato deve imparare tramite sperimentazioni quanto, fino a dove può arrivare il suo corpo, di cosa è capace il suo corpo. Un vero alcolizzato sa identificare il penultimo bicchiere, non l'ultimo, perché l'ultimo è quello che ti ammazza, il penultimo. E c'è tutta una cosa bellissima di Foucault, di Deleuze, che io ho ripreso in trasposizioni, su il penultimo, cioè segnare i limiti, sperimentare con il limite del quale non si può sostenere l'intensità della vita. Questo è un progetto etico, è un progetto di sostenibilità, è un soggetto collettivo, è un soggetto di carnalità, di materialità vissuta, perché il corpo, abbiamo provato noi con le sbornie, di cui sono specialista, il corpo ovviamente indica chiaramente che ne ha avuto abbastanza, che a partire da qua sviene, per cui ci sono delle reazioni chiare che indicano i limiti sono il negativo in azione come strumento analitico. Al di là di qua scegli, muori o ricominci a bere domani. La cosa forte di questo è il non moralismo, è perché davvero spinoziano Deleuze non pensa che la vita sia un valore sacro. Qui rispondo alla questione sul diritto alla vita: non c'è sacralizzazione della vita, la vita è duro lavoro, la vita è progetto, la vita è contenimento dell'intensità, filtro e rielaborazione dell'intensità. È difficile, è molto difficile per i soggetti del capitalismo avanzato, capitalismo cognitivo, che si è dato come capitale fondamentale il pensare, quando il pensare è per gente come noi la nostra ragione di vivere, la nostra ragione d'essere. Siamo presi in un ciclone tossico, difficilissimo, come pensare differentemente, più svelto, più lento, al di fuori di questi schemi di un capitalismo per cui il capitale è il sapere, sono i dati, sono le conoscenze. Quindi per noi, gente a alto livello di fragilità, abbiamo qui quello che chiamo un'etica della sostenibilità, che non moralizza le varie forme di sostegno, fra cui l'alcol, il fumo, gli amori sbagliati, nel mio caso la scrittura. Non so se notate, c'è gente che ha letto, c'è gente che è ancora qui con la galassia Gutenberg, e se io non scrivo muoio, cioè io non sono una scrittrice, sono una grafomane, io ho bisogno di scrivere come respiro, è la mia forma di grafodipendenza. Ma vi sfiderei su questo, vorrei sapere quanti di voi possono, guarda, vedo altri librini nella platea, senza penna matita, senza lo foglio, che sia anche digitale, come facciamo? Io sto pensando che l'ultima operazione spinoziana della mia vita sarà di riuscire a vivere senza scrivere, non so se ce la faccio. Adesso ho in mente il mio ultimo libro, che forse sarà il penultimo, ma mi viene in mente il mio grande maestro Albert Hirschman, che era un grande eroe della resistenza, soprattutto antifascista, fratello di Ursula Hirschman, un uomo straordinario, che verso la fine della sua vita, già pluriottantenne, dicendo: adesso veramente scrivo il mio ultimo libro, e aveva già il titolo in mente, Le opere complete di Albert Hirschman, volume 1. Il penultimo, bisogna imparare a segnare, a sperimentare, perché l'ultimo va troppo lontano. Passioni negative che vanno individualizzate, depatologizzate e superate, semplicemente integrandolo in un progetto di creazione del positivo, che non è uno stato psicologico, è una prassi, è un modo di posizionarsi nell'etica e politica. Ci sarebbe molto da dire sul suicidio, che il suicidio nobile, Deleuze si è ucciso, ha scelto di morire in questo modo quando era molto malato e non respirava più, stava molto male, e su cui quindi non, la vita non aveva più un grande senso. Molte delle persone che io amo tanto, penso a Virginia Woolf, hanno scelto questa maniera di morire. Nel libro io parlo molto di un cambiamento del nostro rapporto alla morte, compreso un cambiamento del rapporto al suicidio, come parte integrante di questa opera di politica affermativa, di riposizionamento di valori al di là dell'umanesimo. In voi giorni d'oggi, vi guardo da lontano, non vi vedo, le statistiche dicono che il vostro rapporto alla morte e al morire è molto diverso da quello della generazione leggermente arrogante dei baby boomers di cui faccio parte. Fra le overdosi, la precarietà, lo stress e la violenza, la vostra familiarità con la morte è molto più intensa. In Inghilterra le statistiche di suicidio giovanile sono date più elevate dagli anni 30. Sempre in Inghilterra, e ne parlo nel mio libro, si sono aperti altri campi di studies dove hanno i death studies, gli studi sulla morte, che hanno moltiplicato cosa? Poi glielo regaliamo. Poi te lo regalo. D'accordo. Bello. Lo leggerò, ma hanno aperto campi di studio sulla morte, perché la morte va diversificata. Noi dobbiamo cominciare a parlare di modi di morire, perché la morte si torna dentro con Agamben, Heidegger, la Zoe negativa. Zoe deve restare forza generatrice. Modi di morire, modalità di morire, tanti, diversi, complicati. Cliniche in Svizzera che praticano il suicidio assistito, la morte assistita. Mi sono iscritta, ero a Zurigo, domani mi iscrivono, si sa mai. Praticate con il diritto a una morte dignitosa. Tutti questi sono sintomi di una grande vitalità, perché le passioni negative altro non sono che l'estensione geometrica estrema di questa vitalità generatrice, che chiaramente implica anche quello che chiamiamo metafisicamente la morte. Cancelliamo quel modo lì, modi di morire, modalità di estinguersi, divenire impercettibile, dice Deleuze, e sono d'accordo, e poi mi fermo, che qui siamo ai limiti del discorso del sacro, perché purtroppo su tutto questo il pensiero metafisico cristiano ha fatto secoli di grande lavoro. Noi dobbiamo poter ripercorrere questi itinerari in maniera laica, che è la mia, in maniera non laica, se preferite. La post-laicità è una parte molto importante del mio libro sul post-umano. Non so quanti di voi siete ancora laici, e se praticate qualsiasi forma di disciplina, di yoga o di vegan, io vi sfido sulla vostra laicità, perché veramente qui siamo in un altro momento, mi sembra. Comunque sono, ripercorrere il terreno del sacro e epurare il vitalismo di tutte le sue connotazioni olistiche, sacralizzanti, protofasciste, che ne hanno fatto un disastro negli anni 30. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Thank you. tómate esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quarto capitoletto. Sul capitalismo, il sapere, i dati, la conoscenza. Levinas e Deleuze hanno molto in comune, mi sembra. Io volevo anche riprendere la faccenda fondamentale sul capitalismo, ma forse siamo tutti stanchi. Perché l'amore sposo manca, volevo semplicemente aggiungere una cosa per chiarezza, perché mi sembra che sia un po' un retroscena di molte delle domande che state facendo, e ovviamente ha un senso, perché quando io dico sono di formazione francese, vuol dire che il capitalismo lo leggo meno con Marx e molto con Deleuze e Guattari, quindi capitalismo come schizofrenia. E per farla breve, la differenza tra questo e Negri è che per Deleuze e Guattari le singolarità complesse non sono assolutamente spontanee, sono duro lavoro. Non c'è insurrezione generale sull'orizzonte della storia, c'è duro lavoro pragmatico, situato, modesto, difficile, per creare le condizioni di emergenza, di una forza positiva, di un'affermazione. Non c'è generazione spontanea di una classe rivoluzionaria che cambierà tutto. Questo è veramente non è il linguaggio né lo schema di Deleuze. Capitalismo come schizofrenia. Capitalismo che già per Deleuze e Guattari negli anni, insomma alla fine degli anni 70, loro già fanno un'analisi di quello che poi è diventata evidente come la mutazione del capitalismo da un sistema di consumo, di sfruttamento del vivente a un sistema cognitivo di produzione di vite differenziate. Questo ha capito, l'ha già intuito Foucault, ma muore troppo giovane, non finisce il lavoro viene completato da Deleuze e Guattari, che quindi parlo di un capitalismo che contro, che c'è avuto un grande coraggio e hanno editato tutti, specialmente Marchais, il segretario generale del Partito Comunista Francese, loro dichiarano che il capitalismo non si spezza, il capitalismo si piega. E su questo possiamo aprire la battaglia, perché qui tutti i Marx o hegeliani non saranno mai d'accordo. Tutta la questione del negativo di Marx e Engels riposa sulla speranza che a un certo punto questo sistema si spacca. Dagli anni 70 in poi tutta la filosofia francese non dice non si spacca, si piega, assorbe, si adatta, prende una velocità di fuga, si muove più svelto che noi. Perché dalla filosofia con questo discorso in Francia si può parlare, ma non è importante. Vi segnalo che Guy Debord scrive la prima analisi della società del spettacolo nel 62, la società di spettacolo del 62. Roland Barthes scrive i primi testi di analisi della televisione nel 57. Quindi c'è un momento francese in cui chiaramente mettono a fuoco il fatto che il capitalismo sta diventando non una società di produzione ma di riproduzione, stiamo andando verso la società del media e lo spettacolo. Quindi cosa significa? Significa che all'interno del capitalismo avanzato le differenze si moltiplicano, differenze che sono immediatamente quantificate come differenze di scelte di consumo. Siamo a Bruce Springsteen, 50 stazioni televisive e niente da guardare, sono tutte esattamente lo stesso. Quindi un sistema differenziale che veramente spregiudicato, che è capace di eliminare, di spiazzare differenze ancestrali per far proliferare un tipo di differenza quantitativa. Le differenze ancestrali centrale che sposta sono differenza margine-centro, differenza uomo-donna. Jean-François Lyotard scrive nella Condizione Postmoderna che il capitalismo avanzato sarà androgino e praticherà il gender bending, perché la differenza sessuale non gli serve più a niente. Ed è la ragione per cui Lucy Rigaray fa della differenza sessuale un campo di battaglia. L'indifferenziazione, un uomo nero la Casa Bianca, questo è il capitalismo avanzato. Gli stessi soggetti che uno pensava, si aspettava all'interno di un'ottica egolo-marxista di venire i soggetti motori di una storia diversa, diventano i complici della prossima fase dell'avvenire. Margaret Thatcher già c'è. Alla fine degli anni 70 già vediamo donne al potere che non cambiano assolutamente nulla. Uno a uno cadono i miti di una classe che sarebbe in un modo, o di un genere o di una specie, che sarebbe in un modo o nell'altro proprietaria della verità sul corso della storia. Questo è dell'esecuzione. Loro preparano il post-marxismo a partire dagli anni 60. Quindi differenze che vanno ripensate all'interno di un sistema differenzialista. Quindi, come dice Donna Haraway, uno dei grandi geni del femminismo, abbiamo differenze che sono strumenti di dominazione, abbiamo differenze che sono ludiche. Come dire la differenza tra le grandi differenze è il compito del pensiero critico, e qui ci vuole un grosso lavoro di depistaggio, di decifrazione e di catalogazione. Seconda cosa, il femminismo è un sistema a alta mobilità, circolazione mediata di capitale, dati, informazione. Circolazione essenzialmente di prodotti o di item, di bits, di informazione. Gli esseri umani non circolano assolutamente con la stessa mobilità, tutt'altro. Frontiere, muri, uno è caduto, non so quanti altri muri sono andati su, uno a Tijuana nel Messico, un altro nei territori occupati in Palestina, un altro muro al confine dell'Unione Europea, ne è caduto uno, ne sono andati su perlomeno altri tre. Quindi mobilità controllatissima all'interno di un'ideologia della libera circolazione. Su questo l'Europa è quasi un capolavoro. Per cui mobilità perverse, immobilismi strategici, è l'importanza di praticare un nomadismo affermativo che invece ci permette di pensare alle mobilità come movimenti di fuga affermativi e sovversivi. Tutta la battaglia di Thérèse Guattari è su questo. Poi, per citare, c'è ancora due che mi fermo, Toscano, il capitalismo avanzato è assiomatico, cambia le regole del gioco mentre il gioco è in corso. Parlavamo prima delle scienze umane, quante riforme universitarie abbiamo visto che cambiavano le regole del gioco mentre il gioco era in corso. Sulla famosa valutazione quantificata sono d'accordissimo che è diventato uno strumento di dittatura all'interno della gestione universitaria, ma anche sui criteri di valutazione non c'è assolutamente consenso, cambiano i 5 minuti, il sistema inglese, quello americano, ne facciamo uno nostro, quanti articoli, in che lingua, su quale riviste, e poi ne dicono due, poi diventano tre, poi diventano 57, questi cambiamenti delle regole del gioco mentre il gioco è in corso è veramente la fase schizoide, è la fase assolutamente schizofrenica di questo sistema, ed è molto difficile per noi che siamo esseri razionali di quella che una volta era la sinistra, che cercano di pensare tutto questo in un linguaggio lineare, come rendere conto in un linguaggio lineare di queste follie che sono completamente contraddittorie. Quindi sistema assiomatico che si dà le sue regole e le cambia quando vuole, perché non ha da rendere conto a nessuno, in questo senso ha un rapporto con la sovranità. E ultimo, l'abbiamo già citato, commercializzazione di tutto ciò che vive, il capitale è la vita e i dati che sono collegati alla vita. Se avete una bella pagina di Facebook, avete fatto la fortuna di Mark Zuckerberg, che questi dati li ha già commercializzati, venduti, perché quello che vogliamo sapere è giusto appunto è tutti i dettagli possibili ed immaginabili sulle vostre preferenze, sulle vostre particolarità, così possiamo vendervi i prodotti giusti. Quindi una commercializzazione della nostra vita, e qui tutti gli studi sulle nuove tecnologie, sui nuovi media hanno fatto grandi lavori su come liberare ovviamente i nuovi media di questa commercializzazione. Quindi questa è la lettura che io farei del capitalismo avanzato. Non penso saremo tutti d'accordo su questo, ma quello che cerco di dire è che all'interno dell'universo spinoziano riletto con Thérèse Guattari c'è molto rigore, molta precisione nel chiarire le strutture all'interno del quale, contro produzioni di soggettività potrebbero avere luogo, e quindi politiche molto concrete che rispondono alla somatizzazione, la differenziazione, la commercializzazione, le modalità perverse. Su ognuna di queste noi possiamo darci strumenti di battaglia. Quinta e ultima parte dell'incontro. Che posto dare alla fantascienza femminista, alle scienze umane? Filantropica del capitalismo avanzato, quale rapporto con il desiderio? Cos'è il capitalismo cognitivo? Dell'osare vivere ad alta intensità. Grazie Tania. Grazie, rapidamente, comincio da Fosca e poi torno a Tania. La fantascienza, sì, in effetti fondamentale come una specie di previsione di scenari a venire. Io, il secondo volume della mia trilogia sul nomadismo, che si chiama Metamorfosi, da grandi spazi a proprio questi scenari della fantascienza, ne parlo anche un po' nel postumano. Ci aiutano a pensare a schemi alternativi e sono in alcuni casi, non so se è questo il caso nei film di Hollywood, ma sicuramente nella letteratura, perché scientifica, Octavia Butler e altri, ci sono c'è un programma politico molto chiaro e molto preciso. Molto lavoro è stato fatto sulla fantascienza, specialmente nel femminismo, negli anni, fine anni 80, anni 90, in cui c'era questa speranza di superare il dominio dell'uomo. È molto collegato a questa cosa del postumano. E se guardate qui i testi di quegli anni, penso al lavoro di Marlene Barr, io conosco soprattutto le fonti in lingua inglese, il lavoro di Barbara Creed, ma anche Giulia Cristeva sul femminile mostruoso, c'è una bellissima equazione che oggi mi fa sorridere, ma alla quale ho creduto per molti anni: la grande alleanza fra donne, lesbiche, LGBT, vegetariani, extraterrestri, mutanti, ibridi, postcoloniali, tutti praticamente immaginari della Terra, tutti uniti contro il dominio dell'uomo bianco. È una cosa stupefacente. Ed è stato un momento di grande speranza, come tutte queste alleanze trasversali, che poi ovviamente si è rivelato semplicemente un altro filone di copioni meravigliosi scritti da Hollywood. Mi sono un po' informata su come vanno queste cose, lavorando per alcuni anni con l'Università di Santa Barbara, che è il campus di Hollywood, dove insegna oltretutto Jodie Foster. Ho cercato in ogni modo di farmi invitare, non l'hanno mai fatto, perché Jodie Foster per me è close, siamo a perdere. Quindi Santa Barbara sforna molti degli scrittori dei copioni di Hollywood, quindi praticamente dà lavoro a gente come voi. Ed è proprio per quello, gente intelligente, preparata, alternativa, sovversiva, che scrive questi copioni incredibili, questi scenari incredibili. E questo è stato per me uno dei momenti più duri nella mia analisi del capitalismo cognitivo, perché sono una persona che pratica l'affermazione, ma mi faccio molto male andando a studiare come funziona questo capitalismo cognitivo. Vi do un esempio: se volete davvero star male, ma prendete una bella bottiglia di qualcosa, qualsiasi cosa, e andate a leggere il programma del World International Forum, che va a luogo, Economic Forum, che ha luogo a Davos in Svizzera ogni anno, che è praticamente il capitalismo avanzato che si incontra sulla montagna magica di Thomas Mann e decide l'avvenire del mondo. Presenti sono una quarantina di premi Nobel, le 20 università più forti del mondo, tutte le compagnie che contano, Zuckerberg, Apple, sono tutte lì, le banche, International Forum, Christine Lagarde, eccetera, e loro decidono quali sono i problemi più importanti del mondo. È tutto aperto online, andatelo a vedere, è una cosa stupefacente. L'anno scorso il tema era la resilience, è un termine che anche i nostri rettori cominciano a utilizzare, la resilienza dinamica, una cosa importante è l'aggettivo, la resilienza era dynamic resilience, la resilienza dinamica, quindi molte di queste cose sul materialismo vitalista, ma giocati specificamente per il principio del profitto. Quest'anno la tematica era le disuguaglianze, quindi la lotta, quindi la rabbia. Quindi studiando il capitalismo cognitivo, ve lo dico perché questo può essere una maniera, io vorrei andarci una volta a questo forum, ma nessuno mi invita, mi chiedo perché. Studiando quindi come funziona il capitalismo avanzato cognitivo, mi sono resa conto che in effetti questi film, specialmente a partire alla fine degli anni 80, sono così rilevanti, così perspicaci, così giusti, perché a scrivere sono i nostri studenti. E questo è stato per me un momento assolutamente rivelatorio, in cui mi sono detta: allora a questo punto, noi che facciamo il cultural studies e che pensiamo di decodificare l'immaginario perverso del capitalismo avanzato, in effetti stiamo contribuendo esattamente a questa cosa lì, ne siamo partecipi. E ho preso quindi un po' di distanza sia dalla produzione della fantascienza, che è cambiata moltissimo da quando entriamo nell'epoca biogenetica, si cambia completamente di scenari. Ci sono ancora qui le ricerche di umanità alternative, ma in un altro modo, queste sono discussioni più da specialisti. Diciamo che il progetto teorico che ne esce è cosa fare dell'immaginazione e cosa fare dell'immaginario sociale, e qui una grandissima discussione su qual è l'espressione giusta, appunto, verace del momento immaginario che stiamo attraversando, se è proprio vero che il capitalismo cognitivo confeziona i nostri desideri e quindi condiziona anche le fantasie e l'immaginario che noi possiamo darci. Qui ci sarebbe una grande discussione con la Camera, faccio corta, e anche con Henri Garay, che ha una lettura lacaniana dell'immaginario. Io penso che l'immaginazione con Spinoza e con Deleuze sia davvero una forza nomade, una forza selvaggia, una forza che è capace di farci sognare cose diverse, va deterritorializzata, a partire dalle stesse regole dell'etica spinoziana, epurare del negativo, renderla propositiva, ma è fondamentalmente una forza, per me, motrice molto importante. Stessa cosa con la posizione di morte. Io penso che il dramma della psicanalisi, il suo momento più hegeliano, sia questa definizione del desiderio come una fiammata di energia cosmica che esplode, si realizza, si spegne e muore, come i salmoni che vanno, questa cosa tremenda dei salmoni che ogni volta, non so, io agonia di questo desiderio, ma si riproducono e muoiono, ma una perdita di tempo tremenda, ma muori subito, falla finita. Questa visione così entropica del desiderio, che ha condizionato tutta un'economia politica, perché quindi vi diamo gli oggetti del desiderio che estinguono il vostro desiderio, e siccome il desiderio è negativo, posizione di morte, si azzera immediatamente, vi diamo un altro oggetto di desiderio, così cominciate di nuovo a essere frustrati e andare avanti. È così che Marcuse critica la logica del consumo. L'esempio sarebbe, penso che abbiate tutti dei telefonini e forse vi illudete che il telefonino che avete è l'ultima generazione. Ebbene no, c'è un'altra già pronta a uscire. Stessa cosa per le tablet, eccetera. Uno è sincronizzato con l'ultima generazione dei beni di consumo per 30 secondi e dopo di nuovo si è in ritardo. Questa è la logica entropica del capitalismo avanzato, alla quale corrisponde invece la logica di un desiderio come pienezza, un desiderio che non si estingue nel consumo di oggetti che si danno, desiderio che è ontologico e propositivo, desiderio che consiste sia a dare ciò che non si ha, ma prendendo il prestito dal futuro. Quindi un mondo triste e depresso, guarda un po', e se facessimo della creazione della speranza, dell'ottimismo, un progetto politico, e non sono Papa Francesco, anche se a volte sembra lui che parla, non è un discorso cristiano, è un discorso di santi, quasi di salute psichica della gente alternativa, dei movimenti alternativi, trae forza da quello che non c'è, da quello che non abbiamo, per renderlo presente. È un gioco di magia, un gioco che sappiamo fare molto bene, dare ciò che non si ha, dopo tutto è una delle definizioni politiche dell'amore. Bene, vi abbiamo ammorbate per benino, siete stramazzate, siete più morte che pria dopo questa puntata sul filosofico andante Allegretto? Allora, è quello che vi siete meritate. Sono cattiva? Ebbene sì, a ognuno le sue croci, mie care. Io ho la mia qui, sempre qui. Genzini. Amichetta con tanti neuroni cercasi, scrivete a il terzo orgasmo @gmail.com. Ripeto, il terzo orgasmo @gmail.com. E con il mio unico neurone vi do appuntamento alla prossima puntata del Terzo Orgasmo, che ci sarà il 27 maggio. Volevo approfittare per dire che era arrivata in radio una mail di una ragazza, di una donna, una certa Marxia, che chiedeva informazioni sul libro di Helen Humphries, di cui abbiamo parlato nell'altra puntata. Purtroppo purtroppo non è stata più trovata la mail di questa donna. Se cortesemente volesse riscriverci appunto a ilterzoorgasmo@gmail.com, noi saremmo ben liete di aiutarla con il libro appunto di Enfri. Grazie ancora e buonanotte a tutte. Kur nemokamos bandelės, o menulėje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats senojus, ten visai nereikia skėčių, o menulį yra drakonų, jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip dar.